la prima cosa che dico è: sono sicuro di una cosa che non dobbiamo fare, cioè trattare da imbecille chi finisce vittima dell'immaginario pubblico inquinato sui temi di cui ci occupiamo. Allora, se noi questi cominciamo a trattarli da webeti, da idioti, eccetera, l'unico effetto che noi otteniamo è farli chiudere ancora di più. Allora, se questo tipo di se questa categoria di persone, che è immersa nella retorica nella quale siamo immersi noi tutti, viene maltrattata alla Burioni, per intenderci, l'unico effetto che otteniamo è la chiusura rispetto ai nostri argomenti. Sicuramente la cosa da evitare è di parlare della storia della resistenza e degli usi della memoria in modo professorale, cattedratico e strafottente. È una cosa banale, ma ogni tanto tocca anche ripeterla, perché non è ovvia, visto che, diciamo, se noi guardiamo ai media mainstream, il tipo di debunker che va per la maggiore è il Burioni, variamente declinato nelle diverse aree di competenza. L'altra cosa che dico è una cosa che ho fatto io: dire le cose che ho imparato stando in Nicoletta Bourbaki in un contesto nel quale non ce le si aspetta. Questo contesto è il discorso ufficiale delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile. Per una serie di circostanze a me è stato chiesto di tenere il discorso conclusivo delle celebrazioni del 25 aprile a Pavia, quindi io ho parlato in piazza di fianco al sindaco, al prefetto e alle forze armate in alta uniforme, e ho fatto tutto un discorso contro la memoria condivisa. Ho fatto tutto un discorso nel quale citavo, chiamandoli per nomi e cognomi, i Salvini e i Fontana di turno, dicendo come loro hanno fatto un uso propagandistico delle bufale che circolano sul fascismo. Quindi ho attualizzato il discorso sulla resistenza, sulla memoria conflittuale dei mesi della liberazione, in un contesto dove di solito la retorica che si ascolta è quella dei fautori della memoria condivisa, per cui il conflitto è relegato al passato, si è concluso con il 1945, e noi tutti ci dovremmo riconoscere, secondo i fautori della memoria condivisa, nel paradigma costituzionale, nei valori della Costituzione. Questa cosa semplicemente non è vera, cioè non è così. Non è proprio così. Se uno assume come presupposto del suo ragionamento che il conflitto è finito nel 45, non lo riconosce nelle forme odierne, e quindi non riconosce l'urfascismo, il fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco.